sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Compila online il modulo di richiesta per partecipare come tedoforo al viaggio della fiamma olimpica. E quando oramai ho perso le speranze di essere chiamato, ricevo una telefonata da mio suocero. Sono Costantino, vivo ad Aosta, ho 41 anni, una moglie e due figli, sono promotore finanziario, amo i viaggi, anche se da un bel po' di tempo non riesco a farne, e adoro ogni tipo di sport. È un venerdì, è il 14 di novembre e lentamente, molto lentamente, anche questo novembre ci sta lasciando. Molto lentamente, ce n'è ancora metà davanti. Però questa settimana di pioggia ci ha abbastanza provato tutti quanti e oggi chiudiamo con una storia che è quello che cerchiamo di fare più o meno da un po' di tempo a questa parte. Da quando qualcuno ci ha scritto più di uno, dai ragazzi, però è venerdì, una storia allegra è venerdì. Allora noi da lì come impegno insieme a Tiziano e tutta la redazione ci siamo presi un po' l'obbligo di dire al venerdì facciamo una storia che sia quantomeno leggera, non che stia su, ma che sia quantomeno leggera. E oggi raccontiamo la storia di Costantino, che è leggera non tanto perché parla di una corsa leggera dei 500 metri, ma perché parla della corsa con in mano una fiaccola, che è la fiaccola olimpico, perché Costantino ha avuto la fortuna di fare il tedoforo. 349-238-6666. Che cosa vi viene in mente quando pensate alle Olimpiadi? Vale tutto, vale qualsiasi pensiero, valgono record olimpici, valgono gare mitologiche, vale il salto di schiena di Fosbury, vale invece una roba privata che vi è successa una sera mentre vi guardavate le Olimpiadi. 349-238-6666. Poco prima di andare in onda, perché comunque sono e rimango un cialtrone, ho fatto una ricerca su dove nasce il tedoforo, dove nasce la fiamma olimpica, addirittura vabbè, il fuoco ovviamente per i greci, no, aveva una connotazione divina, il mito è quello di Prometeo che ruba il fuoco agli dèi e poi viene con terribili supplizi viene ucciso. Però la tradizione del tedoforo, anzi della fiamma olimpica, nasce abbastanza recentemente. Nel 1928 ad Amsterdam la fiamma apparse ai giochi per la prima volta e poi l'idea di una torcia olimpica per le successive edizioni fu accolta con entusiasmo, ma nacque la figura del tedoforo solo nel 1936. Parliamo quindi delle Olimpiadi di Berlino. 3422 tedofori portarono la fiaccola olimpica da Olimpia ovviamente a Berlino. Come nasce la cerimonia lì del fuoco a Olimpia? Si accende questa fiamma tra le rovine del tempio di Era, c'è una cerimonia che sono vestiti insomma da corifeo, no? da coro greco, quasi da tragedia greca, ci sono 11 cerimonianti, il fuoco viene acceso eccetera eccetera, una delle 11 sacerdotesse, ecco qua, passa la fiaccola al primo tedoforo, questa la fiaccola raggiunge quindi, parte da lì e raggiunge la città che ospita i giochi olimpici grazie ad una staffetta formata da innumerevoli tedofori. Ecco, tenete in mente questa immagine, cioè migliaia di persone che si passano una fiaccola olimpica e a un certo punto di quel tragitto lì c'è Costantino che inaspettatamente ha ricevuto questo per lui regalo di potersi vestire con la tuta di Torino 2006 e di fare quel pezzo di strada lì, 500 metri, non di più, ma che lui ci racconta molto bene, soprattutto racconta che cosa succede in quei 500 metri. Voi siete qui Radio 24, al nostro profilo Facebook, voi siete qui R24 invece è il profilo Twitter, altrimenti c'è il solito e banalissimo SMS 349-238-6666. Buon venerdì, questa è la storia di Costantino. Torino, 2006. Il viaggio della fiamma olimpica è ormai avviato. Il convoglio arriverà alle porte di Torino, la mia città, alla vigilia dell'inaugurazione delle Olimpiadi invernali. Sono sempre stato appassionato di sport e un mese fa ho ottenuto il mio personale sulla maratona a Reggio Emilia. La corsa e gli eventi sportivi in genere occupano uno spazio importante nei miei pensieri. Compilo online il modulo di richiesta per partecipare come tedoforo al viaggio della fiamma olimpica e quando oramai ho perso le speranze di essere chiamato, ricevo una telefonata da mio suocero. Non ho mai avuto un buon rapporto con mio suocero, ma devo ammettere che grazie a lui e grazie a quella telefonata ho potuto vivere uno dei momenti più belli e intensi della mia vita. Il filosofo è colui che è chiamato a portare la fiamma olimpica a destinazione, cioè nella fattispecie nel 2006 all'interno dello Stadio Olimpico di Torino. I tedofori sono numerosissimi, per cui ci si passa la fiamma olimpica da una torcia all'altra, si percorre un breve tratto di corsa in attesa di passare la fiamma al tedoforo successivo. I tedofori sono scelti in parte attraverso selezione delle domande ricevute online e in parte su invito dei due sponsor del viaggio della Fiamma Olimpica, in questo caso la Coca-Cola e la Samsung. Mio suocero lavora in un grosso supermercato di Aosta e ha appena ricevuto dal rappresentante della Coca-Cola due accrediti come tedoforo. Mi telefona e mi chiede se preferisco portare la fiaccola olimpica a Settimo Torinese o a San Mauro Torinese. Rispondo: San Mauro. Il grande giorno si avvicina. Mi rendo conto che si tratterà di qualcosa di speciale, ma centrifugato come sono dal lavoro e dal tran tran quotidiano, arriva a quel giorno tutto sommato tranquillo. Il programma prevede un briefing mattutino presso il palazzo del municipio di San Mauro Torinese, durante il quale riceviamo la tuta di Torino 2006, con la quale porteremo la fiaccola. Già, la fiaccola. Bellissima. Disegnata da Pininfarina. Buona parte di questa storia dovrebbe raccontarla lei. Insomma, un pulmino ci carica, siamo una decina di tedofori, e ci scarica uno ad uno sul pezzo di strada che ci compete. Io sono il penultimo ad essere scaricato, e in quel momento inizio a vivere ciò che ogni persona al mondo sogna di poter vivere almeno una volta nella vita. Nel momento in cui il pulmino riparte, vengo letteralmente circondato da una folla festante di perfetti sconosciuti. C'è chi mi abbraccia, una signora mi bacia, tutti mi chiedono di poter fare una foto con loro. Dopo un po' arriva mia moglie, un mio collega di lavoro, un altro che mi chiede se posso fare una foto con sua figlia. Vivo una dimensione ultraterrena per un periodo di tempo che nel mio ricordo può essere durato 10 minuti o mezz'ora. Poi, accompagnato da un boato, vedo arrivare il tedoforo che mi precede. Could I write a piece about you now that you've made it? About the hours spent the wilderness in your training. You only did it so that you could wear terry underwear, feel the city air run past your body. Gli addetti provvedono ad accendere la mia fiaccola e poi parto per i miei 500 metri di gloria. Mi accompagna un ragazzo dell'organizzazione, che è lì per correre di fianco a me per motivi di sicurezza. In quei 500 metri capisco che quel giorno a San Mauro le scuole sono state chiuse. Vedo al di là delle transenne decine, centinaia di ragazzi, mamme e papà festanti. Mi è rimasto impresso in testa l'urlo di un ragazzo che a braccia alzate esultava come avrei fatto io 2 anni dopo al rigore di Grosso. Incredibile. Per un attimo mi sono chiesto perché. E poi ho deciso che quei 2 minuti semplicemente andavano vissuti. Insomma, arriviamo al punto in cui la fiamma dovrà passare al tedoforo successivo. Risalgo sul pulmino e dal vetro posteriore vedo il collega tedoforo, è una ragazza, portare la sua fiaccola tra 2 ali di folla, che neanche l'arrivo di una tappa alpina del Giro d'Italia. Sta attraversando il vecchio ponte sul Po di San Mauro, il punto più bello, quello dove si concentra la maggior parte della gente. Al termine del suo tratto, la ragazza sale sul pulmino e ha ancora i brividi. Correre in mezzo a 2 ali di folla è un'esperienza unica, non sono esperienze che si vivono quotidianamente. Ti senti avvolto dall'entusiasmo della gente che è lì per te, urla, salta e ti chiedi che cosa mai avrei fatto per meritare tutta questa attenzione. È veramente un'emozione, un qualche cosa che metti i brividi. I giorni successivi li trascorro su una nuvola, invito i miei amici a casa e faccio foto un po' con tutti, con fiaccola e tuta di Torino 2006. Già, ancora lei, la fiaccola. E qui arriva l'ultima parte di questa storia, per me altrettanto bella. Qualche giorno prima di portare la mia fiaccola per le vie di San Mauro, leggo sul giornale che un tedoforo ha già provveduto a vendere su eBay la sua fiaccola, praticamente pochi giorni dopo averla utilizzata. Subito sorrido e penso che sia un pazzo. Poi, non so, non sono mai stato legato alle cose materiali. E quindi, 2 giorni dopo il mio momento di gloria, metto in vendita anche io la fiaccola su eBay. Se la aggiudica al photo finish un professore di storia di un comune della cintura di Torino. mi chiede subito di incontrarci per lo scambio, evitando una spedizione che avrebbe messo a repentaglio il prezioso oggetto. Ci incontriamo la sera successiva e conosco una persona squisita che mi fa dono di un suo libro sui misteri della Torino sotterranea. La mia fiaccola da quel momento è stata esposta in alcune mostre e ovviamente ha fatto ingresso trionfale nella classe di Mauro, il professore di storia. Quella è rimasta ad oggi la mia unica vendita su eBay. Con il ricavato di quella vendita ho fatto il mese successivo un'offerta per la costruzione di una clinica di emergency in Sudan. Questa cosa non è carina da sbandierare, ma mi ha fatto particolare piacere pensare di aver fatto in modo che indirettamente la Coca-Cola andasse a finanziare una causa umanitaria, anche se probabilmente non lo saprà mai. Dunque, ci ha mandato due foto Costantino e ci ha chiesto di scegliere, anche se ho detto mi rappresenta di più una, infatti abbiamo messo questa, perché nell'altra che non abbiamo messo, potete immaginare, aveva la fiaccola ed era vestito da Tedoforo, cioè in tuta, Torino 2006. In questa invece lui è, credo, accovacciato per allacciarsi una scarpa in montagna, immagino che stia facendo corsa in montagna, una passeggiata in montagna, e ha una capretta, devo dire, deliziosa, ma con due corna, non da poco, che credo lo stia leccando o baciando su una guancia. Pronto Costantino, buongiorno. Buongiorno, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, benone, tu? Senti, io bene, ti ringrazio. Dove sei con questa capra che ti lecca? Sono a 3000 metri al Mont Faller, per l'esattezza. Ok, quindi i monti che si vedono dietro sono le Alpi di dove? Sono le Alpi, di fatto, al confine fra Italia e Francia. Ok, ok. A sinistra del Monte Bianco. E quella non è la tua capretta, è semplicemente una capra che ti ha trovato per la strada accovacciato, mi auguro. No, ho trovato questo gruppo di caprette, saranno state una trentina a 3000, è stata una sorpresa, per cui mi ero effettivamente accovacciato a lasciarmi la scarpa e l'amico con cui ero quel giorno ha avuto la prontezza di immortalarmi in quel momento, quindi è una foto diventata un po' un'icona per me. Costantino, andiamo con ordine, tu dici più di una volta nel racconto che sei, insomma, che la corsa occupa proprio una parte importante dei tuoi pensieri. Mi spieghi cosa significa? Nel senso che posso immaginare che chi corre abbia una parte importante della propria giornata, no? Del proprio tempo occupato da quello, ma dei tuoi pensieri significa che ti dà forza, ti dà energia, ti dà come dire, una fuga dalla quotidianità? Sì, più che fuga, correndo, qualcuno ha dato anche una spiegazione medica per questa cosa, correndo di fatto riesco a sprigionare energie che magari sono dentro di me ma sono un po' sopite, per cui soprattutto anche all'arrivo dalla corsa, da un allenamento intenso, da una gara soprattutto, provo sensazioni che mi fanno voler ripetere di nuovo quell'esperienza, quindi si innesta un circolo virtuoso che mi fa voler correre nuovamente, penso sia così un po' per tutti quelli che corrono. Da quanto lo fai? Allora, corro da più o meno da quando ho 28-29 anni. E adesso ne hai più o meno, ricordamelo? Sono 41. 41. Cosa fai nella vita esattamente, Costantino? Sono promotore finanziario. Quindi vai in giro? Il promotore va dal cliente o...? Il promotore ha una base in ufficio, ma dovrebbe starci meno possibile, perché i clienti bisogna andare a cercarseli attraverso referenze, attraverso la vita quotidiana, per cui è buona norma almeno metà giornata giro, passarla in giro, sì. Visto che lo dici nel racconto che avevi appena fatto il tuo personale in una maratona, mi dici quant'è il tuo tempo? Avevo fatto 2 ore 56 e 16 secondi per la precisione. Ah, quindi sei uno che va forte, Costantino. Diciamo sì, che è stata la mia ultima prestazione di quel genere, perché poi ho avuto un po' di problemini fisici uno dietro l'altro, per cui ho fatto gare di minore durata, Certo, ricordiamo, scusami, tu lo sicuramente lo saprai, il record mondiale sulla maratona quante ore sono? 2 ore qualcosa? 2 ore e 3 minuti? Due ore... È stato ritoccato, sì, da pochi mesi, credo sia 2 ore e 3 minuti, sì. Benissimo. Costantino, andiamo invece a quel momento lì, andiamo a quando fai il tedoforo e c'hai queste persone che urlano. Mi racconti che la sensazione che si prova ad avere delle persone che inneggiano a te che passi senza alcun motivo reale, perché, diciamo, sì, tu non hai fatto niente, stai correndo per 500 metri con una fiaccola. Grazie ricevuta, ma il momento più inatteso è stato proprio la discesa da questo pulmino, dove sono stato lasciato, diciamo, in pasto a questa folla che piano piano è arrivato, prima uno poi l'altro, poi mi sono trovato accerchiato da persone che ho capito che in quel momento rappresentavo qualcosa di importante per tutte queste persone. E poi durante la corsa c'era forte emozione, infatti il ragazzo che corre con i tedofori, parlando, mi spiegava anche che il suo compito era quello di calmare un attimino il tedoforo, no? Perché obiettivamente non sei pronto, se non sei una star non sei pronta a un impatto del genere. Certo, perché c'è della gente che ti vuole bene senza motivo, sostanzialmente. Esatto, sì. Da cui lui comunque ti... Siamo più abituati al fatto che ci sia della gente che ci regala dell'affetto senza motivo. Quindi ci vuole uno che ti tenga tranquillo addirittura. Sì, è stato così. Da cui ha iniziato a parlarmi di corsa, mi ha chiesto anche lui della mia recente maratona. E di fatto poi quei 500 metri ogni tanto mi invitava anche a salutare, a fare dei cenni, perché giustamente da una star tu ti aspetti che, certo, ci sia riconoscenza dal suo pubblico. Certo, salutare il tuo pubblico come la regina Elisabetta con la manina. Più o meno. Costantino, tuo suocero come sta? Ah, sta bene, sta bene. Ah, ok, devo dire che insomma il rapporto è migliorato dopo questo avvenimento. Va più o meno, alti e bassi. va bene. Prendiamo per com'è, lui prende me per come sono e va bene così. Costantino, grazie ancora per il racconto, la storia, in bocca al lupo per le tue prossime corse. Crepi, grazie. A presto. Grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao, ciao. E alla fine della storia di Costantino ho capito un po' di cose. Ho capito che, primo, il tedoforo lo si può fare anche grazie al suocero che lavora in un supermercato. Secondo, le Olimpiadi hanno nella loro meravigliosa inutilità qualcosa di infinitamente romantico. Terzo, 2 minuti possono diventare indelebili nella vita di una persona. Quarto, in fondo le grandi multinazionali possono addirittura fare del bene. Quinto, alle prossime Olimpiadi in Italia, se ancora ci sarò, voglio assolutamente fare il tedoforo. Si parlava di Olimpiadi oggi grazie appunto alla storia di Costantino. Abbiamo spiegato più o meno la storia della fiamma olimpica in apertura. Avevamo chiesto a che cosa pensate quando pensate alle Olimpiadi. Qual è il primo ricordo che vi viene in mente? 349-238-6666. Claudio scrive: non so perché, ma penso sempre a Ben Johnson che vince e poi perde. La roba lì effettivamente... Tiziano, tu che sei tutto, dopo quanto era stato squalificato lui? Dopo un bel po'... Ah, poi tipo due giorni dopo... insomma, non fu abbastanza rapida. Io mi ricordo benissimo la sensazione di vedere questo che va come un fulmine e poi qualche giorno dopo dire: no, ha fatto finta, cioè ci ha preso tutti per il culo. Al 9,79, che è ancora record. No, adesso niente. Coi record, no, certo, è stato cancellato ovviamente quel record. Record del mondo adesso va sempre di Bolt, ovviamente. Alessandra invece scrive: perché appunto ognuno c'ha i propri ricordi legati alle Olimpiadi. Se penso alle Olimpiadi, penso alla prima notte d'amore con quello che sarebbe stato poi il mio futuro marito, subito dopo la vittoria di Cassina. Cassina, lo ricordiamo perché abbiamo fatto anche una storia. Ci mandò una storia un ascoltatore che era presente ad Atene, giusto? Niente, l'Olimpiadi. Insomma, vide ad Atene, vide la famosa medaglia d'oro, quella del movimento Cassina, con Cassina che faceva quel movimento incredibile sulle parallele. 349-238-6666. Io vi ringrazio per tutti quelli che avete scritto e non faccio in tempo a leggere tutti. Oggi è venerdì, quindi godetevi un bel weekend. Se avete voglia, scaricatevi i podcast del programma, li trovate online sul sito, in streaming, oppure scaricabili gli ultimi 5 tramite il sito, tramite iTunes. Domani alle 14.30 sono in onda i diari di Voi Siete Qui, nuove storie di nuovi diari grazie all'Archivio Nazionale dei Diari di Pier Santo Stefano e grazie ai vostri diari che vi chiedo di continuare a mandare a Voi Siete Qui @radio24.it. Paulino Corleoni, Miriam Lucchetti, Tiziano Bonini, grazie a loro, grazie soprattutto a Costantino. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Stefano, vivo nei pressi di Modena. La storia di lunedì è la mia e parla di una gara di nuoto, di una figuraccia e di quello che sarei diventato nella vita. Questa questa è la mia storia e io sono qui.